miksuje dla was DJ Lapiforce. Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire in montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. I don't care. a ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io solo ti amo, il fondo di un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io.

14 centuries, not since we elders first began to leapfrog through time. You have broken the chain and the covenant. You must be judged. Broken the chain and the covenant. You must be judged.